Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Di che parliamo? Allora, come ti ricorderai sicuramente, ieri a Soldi e Dintorni abbiamo parlato di credito al consumo. Abbiamo riferito. Sì, fino a ieri ci arrivo. se ti faccio una domanda sulla settimana scorsa, qua no. Cominciamo a brancolare nel buio. No. Un po' l'arteria sclerosi sta incombendo su entrambi. Allora, sì, ieri abbiamo parlato di credito al consumo e sull'indagine che su questo settore ha concluso la Commissione Finanze della Camera. Indagine da cui è emerso ancora una volta quanto banche e finanziarie debbano informare e documentare bene i consumatori quando questi contraggono prestiti e finanziamenti, e naturalmente la maggiore informazione va riferita soprattutto alle clausole e alle condizioni di questi contratti. Fra questi contratti sono compresi anche quelli delle carte di credito. Allora, ieri vi avevo anticipato che vi avremmo spiegato cosa sta succedendo in questo settore in America. Perché? Perché da due giorni 1400 pagine di legge tenteranno, almeno da qui in avanti, di mettere un freno al debito, al consumo inarrestabile degli americani. Lunedì infatti è entrata in vigore una legge voluta un anno fa dal presidente Barack Obama. La nuova legge sulle carte di credito si chiama Credit Card Act. E allora noi stamattina cercheremo di capire intanto cosa cambia in America e come possiamo osservare anche come consumatori italiani questo cambiamento che per gli Stati Uniti è sicuramente enorme. Chi ci aiuta? Antonio Calegari, direttore marketing and sales di Diners Club Italia. Dottor Calegari, buongiorno e benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, abbiamo interpellato Diners Club perché la Diners è stata la prima carta di credito emessa in Italia, dottor Calegari. Sì, è vero, nel 58 ancora, 51 anni fa. Quindi poi negli Stati Uniti siete arrivati dopo, no, nel 49 invece l'avete messa negli Stati Uniti. Chiaramente là arrivano sempre prima in tutte, quindi soprattutto in questo campo ovviamente non si fanno insegnare sicuramente niente dagli altri. Allora, vorrei che stamattina lei ci aiutasse intanto a capire cosa cambierà negli Stati Uniti. A noi non ci riguarda ovviamente perché là hanno delle abitudini di indebitamento enormi e ne stanno pagando adesso anche le conseguenze. Sono molto flessibili in tutto e anche in questo. Però siccome in Italia non abbiamo una grande attitudine ad utilizzare la moneta elettronica di pagamento, questo l'abbiamo detto mille volte, cerchiamo di capire anche come ci possono interessare, come dire, come ci può interessare il tema delle maggiori tutele americane anche a noi. Allora, intanto la nuova legge americana prevede la proibizione della pratica del cosiddetto default universale applicato in passato sui clienti che avevano più carte di credito. Quindi, se un consumatore farà un ritardo di pagamento di un rimborso mensile, anzi questo prima succedeva, faceva scattare un tasso di interesse più elevato, automaticamente quella sanzione veniva trasferita a tutte le altre carte di credito. Questo è impossibile che accada, dottor Calegari, in Italia? Ma sì, questo è impossibile che accada, e oltretutto questa cosa si applicava ad una prassi molto diffusa negli Stati Uniti e molto rara in Italia invece, di alzare il tasso di interesse a seguito di un ritardato pagamento. In Italia più frequentemente un ritardato pagamento provoca delle penali, delle commissioni, ma non una revisione globale del tasso di interesse. Ecco, per esempio, ad un cliente di Diners Club, se paga in ritardo, no, tra l'altro poi dobbiamo anche specificare che il mondo americano ovviamente tutta questa riforma riguarda le cosiddette carte revolving, e non l'abbiamo precisato, ma questo è un passaggio fondamentale, le ricaricabili, che in Italia si sono diffuse sì negli ultimi anni, ma a tassi di crescita molto, molto contenuti rispetto allo standard americano, dottor Calegari. Ma questo sì, forse è il punto proprio più importante e che fa capire anche la differenza tra l'Italia e gli Stati Uniti. Come avete spiegato bene anche ieri voi, il credito continua a essere una cosa importante anche nell'Europa del Sud e in Italia, però tende a essere sempre concentrato sui beni di investimento, sulla casa, sull'automobile, scendendo sugli elettrodomestici, non sul consumo quotidiano, che invece è la realtà da molto tempo negli Stati Uniti, e questo provoca delle attitudini completamente diverse. Quindi gli americani vivono o hanno vissuto a credito molto spesso, gli italiani molto più frequentemente no, assolutamente. E questo si traduce anche in una diversa portafoglio di carte di credito che sono a disposizione degli italiani. Insisto molto sempre sul fatto che una carta revolving è uno strumento molto diverso dalla tradizionale carta di credito che hanno in tasca la maggior parte degli italiani. Una carta revolving è uno strumento di credito, La carta di credito tradizionale è soprattutto un comodo e sicuro strumento di pagamento. Di pagamento per dilazionare evidentemente i nostri pagamenti. Tant'è vero che se andiamo a guardare anche la storia di Diners Club, io torno sempre lì perché è anche molto divertente, diciamo il vostro fondatore, il fondatore della vostra società appunto negli anni 50, ebbe proprio l'intuizione di inventarsi questa carta in un ristorante, non aveva del contante, dice ma insomma perché non posso pagare ugualmente utilizzando qualcos'altro? Assolutamente, fu un momento molto imbarazzante, era un businessman con dei ospiti di lavoro e si era dimenticato il contante. Da lì gli venne l'idea di costruire un circuito che all'inizio era soltanto in ristoranti, da cui il nome Diners, che significa cenare in inglese, che poi in realtà è diventato uno strumento universale. Ritorniamo, dottor Calegari, a quanto sta cambiando negli Stati Uniti. Andiamo alla regolamentazione delle offerte promozionali che spesso confondono anche i clienti delle banche. Le banche e le varie compagnie negli Stati Uniti hanno sempre avuto la, chiamiamola così, discutibile abitudine commerciale di proporre la sottoscrizione di carte di credito a chiunque con tassi di interesse di partenza molto bassi, proprio per chiaramente agguantare il maggior numero di clienti. Poi i tassi venivano alzati immediatamente. Adesso con la nuova legge questo non dovrebbe essere più possibile, ma mi pare che in Italia non abbiamo sulle carte tassi di interesse di partenza. Per chi sottoscrive una carta di credito le condizioni credo siano ben note dall'inizio e quelle rimangono. Sì, è così, assolutamente. E di nuovo, se mi permette, faccio una distinzione tra le carte di credito a saldo, quelle più diffuse, che proprio non hanno tassi di interesse, perché anzi al contrario, i soldi vengono prestati a chi ha la carta da quando spende fino al saldo, totalmente gratuitamente. E questo per le carte a saldo. Invece per le carte revolving l'interesse è fisso, sono interessi di solito piuttosto alti, quindi bisogna stare attenti a come e quando si usano queste carte, però sono fissi e dichiarati in modo molto chiaro quando si sottoscrive il contratto. C'è un'altra importante novità che riguarda il limite d'età per la sottoscrizione della carta di credito negli Stati Uniti, limite d'età 21 anni, sotto i 21 anni di età d'ora in poi in America occorrerà il consenso del genitore per farsi dare una carta di credito dalla banca, oppure il giovane dovrà dimostrare di essere autosufficiente. Qui da noi, dottor Calegari, non abbiamo questo limite. È proprio un problema che non si pone. Molte carte non vengono neanche date sotto una certa età, per fare forse siamo più conservativi, ma non diamo carte sotto i 25 anni. Di nuovo è diverso negli Stati Uniti, dove c'era una prassi molto diffusa di dare carte anche magari distribuite nei college direttamente, quindi a ragazzi molto giovani, lontani da casa propria. E che poi si innescavano questa abitudine a vivere a credito che creava anche significativi dissesti finanziari. Mm-hmm. Dottor Calegari, voi quante Diners distribuite in Italia? Tanto per capire anche, poi adesso io non ho cifre che mi possano permettere un rapporto con le altre società che operano nello stesso comparto, ma per capire anche quali potenziali di crescita ci sono ancora nel nostro paese e per quali motivo gli italiani continuano ad essere così resistenti all'utilizzo della carta di credito. Dunque, noi siamo un operatore abbastanza di nicchia, vorrei dire, cioè, facciamo carte a debito e rivolte ai clienti più esigenti, più sofisticati. In generale in Italia ci sono molte carte, ci sono quasi 41 milioni di carte di credito in circolazione, ma di cui meno del 40% vengono poi effettivamente usate. E c'è in generale, come ha detto bene lei, una certa resistenza all'utilizzo della carta, che credo che derivi in parte da una sana e prudente avversione al debito, in senso lato, ma anche un po' invece un'avversione a degli strumenti più moderni, più comodi, così, per un certo tradizionalismo. Ripeto, le carte a saldo non hanno di fatto nessun rischio, non hanno situazioni di calcolo complicate, non hanno sorprese di solito, sono invece molto comode, molto sicure, sicuramente più sicuro di portarsi in giro i contanti, e quindi io invito sempre tutti a usare serenamente. Per lo scettico che ovviamente guarda ancora alla carta di credito come al diavolo in persona, in sostanza quello che dobbiamo indicargli è solamente di tenere sotto controllo le spese che devono essere fatte ogni mese, in modo tale che il mese successivo, quando arriva l'accredito complessivo, insomma si sappia bene quello che sta arrivando. Un suggerimento ai nostri ascoltatori, dottor Calegari? Ma come gli italiani sanno molto bene che si spendono i soldi che si hanno, non quelli che si avranno forse o che non si hanno, e in questo senso l'uso della carta è assolutamente sereno. Uno se alla fine del mese riceve un estratto conto molto chiaro, e spesso è proprio l'emittente che si preoccupa di informarlo se sta forse uscendo dai suoi limiti naturali, diciamo. Non credo che ci sia bisogno di particolari attenzioni per vivere felicemente con una carta di credito a saldo, invito invece sempre a essere molto attenti nell'utilizzo delle carte revolving, perché se non usate con attenzione, quelle sì possono dare delle sorprese. La ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro. Grazie anche a voi. A presto, ad Antonio Calegari, Diners Club Italia. Alessandro. Salvadanaio, alle 12. La tariffa via oraria che parte da luglio, molti ascoltatori stanno ricevendo le comunicazioni da parte dell'azienda elettrica, ma non sanno in che cosa consiste questa novità, quindi ci dobbiamo ritornare. Lo scopriremo. Sono le 8.33 minuti, le notizie in primo piano, bufera giudiziaria su Fastweb e Telecom Sparkle, per le quali la Procura di Roma ha chiesto il commissariamento nell'ambito di un'inchiesta su maxi riciclaggio per circa 2 miliardi di euro. Ha chiesto anche l'arresto per un politico, il senatore Di Girolamo del PDL. L'ipotesi è che la sua elezione sia avvenuta grazie ai voti dell''Ndrangheta. 70 sindaci su 134 della provincia di Milano dicono no al blocco del traffico previsto per domenica prossima in Val Padana. È un blocco inutile, dicono molti amministratori. Mentre per lo sport, il calcio, stasera l'andata degli ottavi di Champions, l'Inter di Mourinho affronta San Siro il Chelsea di Carlo Ancelotti, si recupera anche per il campionato Fiorentina-Milan alle 18.30. Mentre alle Olimpiadi di Vancouver, delusioni per le azzurre sia nello sci alpino sia nella notte nel pattinaggio con Caroline Kostner che è settima dopo la prima prova. E allora alle 8.34 minuti parliamo di politica, di queste liste pulite, di questa candidabilità e candore dei candidati nel nostro sondaggio di oggi. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Perché dico candore? Perché Giulia Bongiorno oggi in un'intervista a Repubblica dice: candidato è perché in origine si presentavano con la toga candida, con la quale si dovevano presentare in pubblico. Il candidato dovrebbe essere una persona dalla condotta esemplare. Sì, bellissime parole, ma come si fa? Ci vuole una legge, come chiede qualcuno, per stabilire chi si può candidare? Questa è la nostra domanda di oggi, che poi la legge che vuol dire? Che dovrebbe stabilire? Non si può candidare chi è indagato, chi è condannato in primo grado, chi è condannato in via definitiva? Discutiamone. Intanto voglio salutare due politiche, Beatrice Lorenzino, onorevole del Popolo della Libertà, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Così buongiorno. Come Sonia Alfano, che è eurodeputato dell'Italia dei Valori, buongiorno, buongiorno. Ben ritrovata. Buongiorno. Alfano, intanto vi ascolta e lo voglio salutare anche un magistrato che è Alberto Cisterna della Direzione Nazionale Antimafia. Cisterna, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, dottore. Allora, onorevole Alfano, io lei che paletti metterebbe, per esempio, sulla candidabilità? Guardi, io trovo le parole di Giulia Bongiorno un faro in questo momento. Io, proprio di quella frase, della spiegazione di che cosa significava anticamente il termine candidato, ne ho fatto uno dei cavalli di battaglia nella mia campagna elettorale. Semplicemente metterei dei paletti che forse potrebbero apparire per altri molti restrittivi, però per quanto mi riguarda, già pregiudicati e condannati lo già da per certo che non dovrebbero essere candidabili, però metterei questo limite anche per le persone indagate e aggiunte d'avviso di garanzia. Accidenti. Più che altro per consentire a queste persone di poter affrontare serenamente un processo. Cioè, quindi, per esempio, il senatore Di Girolamo, giusto per parlare dell'ultima inchiesta, che dovrebbe fare? Si dovrebbe dimettere e affrontare? Certo, io faccio un altro percorso. Nel momento in cui questa persona, puta caso, dovesse essere condannato, come si va a spiegare ai cittadini che già in questo momento sono molto delusi, rassegnati, soltanto sono tutti uguali, come lo si spiega a queste persone che probabilmente lui, o come quelli che altri già sono stati condannati, che questa persona nell'esercizio delle sue funzioni ha fatto altro piuttosto che pensare al bene della collettività, al bene di questo paese? Quindi lei è per no ai condannati, sia quindi anche in primo grado, visto che lei è anche no per gli indagati. Immagino, esatto. La vicenda allora di De Luca in Campania le abbia creato qualche mal di pancia, no? Candidato del PD, per la verità, ma appoggiato all'Italia dei Valori, è indagato. Sì, su questo la mia posizione è stata netta immediatamente. Io non condivido questa scelta, assolutamente non sosterrò De Luca nella sua campagna elettorale, ma io l'ho detto da subito, perché quello che vale per gli altri deve valere innanzitutto in casa propria. Allora, questa è una posizione, diciamo, quella possiamo dire intransigente. Onorevole Lorenzin, si è molto sentito anche dal Popolo della Libertà dire attenzione, perché così, forse così come chiede Sonia Alfano, si rischia di mettere in mano ai magistrati la scelta sostanzialmente di chi mettere in lista, chi mettere no, perché se basta un avviso di garanzia. Beh, direi ai pubblici ministeri, perché qui non si tratta neanche di aver avuto già un giudizio, ma semplicemente di essere indagati. Su questo ragionamento voglio ricordare che l'avviso di garanzia va a tutela e a difesa diciamo del cittadino, che deve sapere che c'è un'indagine nel suo corso. Ma poi qui potremmo aprire un vaso di Pandora, cioè quale tipo di reati contro la pubblica amministrazione o qualsiasi tipo di reato, e in caso di errore giudiziario che cosa accade? E bisogna attendere la fase delle indagini, oppure si può anche affidarsi alla prima fase del giudizio? Io credo che noi in questo caso il faro ce l'abbiamo, ed è la nostra Costituzione, questa Costituzione che dalla stessa Italia dei Valori spesso viene citata come una sorta di totem intoccabile. Ebbene, la Costituzione nostra, che si è occupata molto di queste questioni, come quelle di tutte le costituzioni degli stati di diritto, diciamo a democrazia matura, sancisce un principio che è un principio importantissimo, per cui l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, quindi il famoso principio di non colpevolezza. Quindi lei che paletto metterebbe? Perché qualcun altro dice almeno il rinvio a giudizio, ecco, già quello. No, guardi, io metterei un paletto molto, molto serio. Perché noi stiamo facendo un ragionamento che riguarda la vita e la garanzia democratica, l'esercizio democratico del nostro paese. A parole è molto facile dire piove governo ladro, no? Sono quegli slogan che piacciono, sono forti, però poi noi dobbiamo garantire un sistema che non può essere un sistema di polizia, ma deve essere un sistema di democrazia. Allora il paletto principale che noi dobbiamo mettere è dare la capacità ai partiti politici, pretendere dai partiti politici una capacità di scelta caso per caso sui singoli candidati. Quindi siano i partiti a decidere. Non soltanto i partiti, perché i partiti vengono poi sottoposti poi al vaglio finale, che è il vaglio dell'elettorato. Ecco, questo è un tema interessante. I cosiddetti check and balance, no? Cioè, da una parte il partito politico che sceglie, ci sono i mass media che danno la massima attenzione alle liste, e poi tutto il check and balance veri nel sistema, cioè la divisione tra potere esecutivo, potere legislativo. Però le chiedo, onorevole Renzi, non è il rischio, questa è una difesa che spesso i partiti dicono, è giusta, è legittimo che i partiti decidano, perché poi si presentano agli elettori e lì c'è il momento in cui gli elettori, se i partiti candidano qualcuno che fa storcere il naso, gli elettori possono decidere col voto. Però se a me piace un partito, quel partito candida 500 persone e tra questi ci sono tre farabutti, io magari non è che per tre farabutti faccio cadere il voto a tutto il partito perché credo in quel partito. Però spesso si insinuano in queste maglie un po' larghe anche dei farabutti. Guardi, quella però è una scelta sovrana che rimane in capo al cittadino, cioè ognuno, e chi fa le liste nel momento in cui le deve compilare si deve assumere una responsabilità seria. Io ho avuto l'occasione di fare la lista per le elezioni amministrative della mia città a Roma nel 2006, e le assicuro che ho vagliato nome per nome con la lente di ingrandimento. Poi ovviamente può sempre succedere qualcosa, perché ci sono poi dei fatti che uno può non conoscere. Certo, ma con che criterio? Non certo l'avviso di garanzia. Beh, certamente no. Tra l'altro uno sa, per esempio, ci possono essere dei casi, noi stiamo parlando anche di questioni politiche, una persona può essere stata coinvolta in una discussione anche accesa e animata con qualcun altro, e poi ci sono anche, potrebbero anche scattare dei meccanismi persecutori o di fuoco amico. Immagino ad esempio che, sapendo che c'è un candidato che può essere forte, uno va e monta su un caso contro questa persona, non soltanto da parte dei pubblici ministeri, perché se basta l'avviso di garanzia. No, ma sono interessanti le due posizioni, le abbiamo riassunte così, diciamo più intransigente quella di Sonia Alfano, l'avviso di garanzia e non bisognerebbe candidarsi, invece Beatrice Lorenzin rivendica la scelta da parte dei partiti. Vorrei andare dal nostro magistrato, procuratore Cisterna. Intanto non so se insomma l'inchiesta, l'ultima che sta terremotando, l'abbiamo scoperta oggi o ieri dalle notizie, oggi sui giornali, è questa in cui si legge anche l'Ndrangheta è entrata in Parlamento, bisognerebbe sempre dire sarebbe entrata in Parlamento, siamo garantisti. La stupisce lei che di 'Ndrangheta vive, insomma, Cisterna è calabrese, braccio destro di Grasso per la Calabria, tra l'altro. No, non mi stupisce quello che sta accadendo. D'altra parte non è mai l'ultima inchiesta, in questo paese è sempre la penultima, ho l'impressione, cioè da come si stanno mettendo le cose è del tutto evidente che tante indagini arriveranno ad epilogo in tempi anche probabilmente non molto lunghi e tante di queste cose verranno anche replicate in qualche modo, perché è del tutto evidente che la criminalità organizzata, anche calabrese, sta dando l'assalto, per così dire, alle istituzioni, che non è un assalto armato, ma è un assalto fatto di insinuazioni, di pressioni, di cooptazioni. Purtroppo questo è un paese che è diventato un paese difficile. Io ho ascoltato con grande attenzione e vedevo e sentivo posizioni sicuramente intellettualmente oneste entrambi, e difficili da conciliare proprio per la loro onestà e anche trasparenza nel modo in cui si espongono le idee, però si coglie intera il rischio del nostro paese in questo momento, cioè quello di mettere insieme cose che non stanno insieme facilmente, cioè il rigore verso la corruzione, la selezione dei candidati in un sistema elettorale in cui però questi candidati li scelgono i partiti, quindi quel discorso che lei faceva sul voto trova anche il limite nel fatto che poi le liste sono bloccate, almeno per le elezioni nazionali, il problema delle garanzie processuali, che è un problema sempre scottante. Però lei vedrebbe bene una legge, per esempio Fini ha detto ci vuole la legge, chi viene condannato per reati contro la pubblica amministrazione salti un giro, 5 anni fuori. Schifani ha detto ma c'è già questa legge, nel senso che in molte delle condanne c'è già l'interdizione o perpetua temporanea che non ti porta a essere candidato. Ma guardi, il problema della legge è un problema naturalmente che attiene alla constatazione di una mancanza di self-control da parte dei partiti, cioè è chiaro che se ci fosse stata maggiore vigilanza e maggiore attenzione negli anni all'individuazione dei candidati, naturalmente il problema della legge non si sarebbe posto, perché capiamo tutti che è un problema che tocca delle garanzie importanti, tocca il diritto di libertà politica dei cittadini, sia l'elettorato, soprattutto in questo caso l'elettorato passivo, cioè il diritto a candidarsi ed essere eletti. Quindi la legge è sempre un male che si sta prefigurando come necessario in un contesto in cui se si fossero bonificate alcune aree di malaffare a questo non si sarebbe arrivati. Ciò detto, è del tutto evidente che il problema della presunzione di innocenza, che poi non è un problema, è la garanzia della presunzione di innocenza, crea un problema a una legge, perché è una legge che in qualche modo deve ancorare l'ineleggibilità o l'incandidabilità a un presupposto, qual è quello del rinvio a giudizio, della condanna di primo grado, che per definizione è un presupposto instabile, per così dire, insicuro, nel senso che può essere vanificato. Allora, devo andare alle informazioni sul traffico. Intanto devo dire che l'80% è a favore della legge, cioè vorrebbe una legge, poi bisognerebbe capire quale tipo di legge. Allora, prima magari del traffico sentiamo se Alessandro dalla provincia di Cremona, che ne pensa? Alessandro. Allora, io sono assolutamente contrario ad una legge, perché ho vissuto proprio un'esperienza personale come sindaco candidato al mio paese, rinviato a giudizio. Sì, si è dimesso? Prego? Si è dimesso per questo rinvio a giudizio? No, ero sindaco, mi sono ricandidato in occasione delle elezioni e con il rinvio a giudizio ho vinto poi le elezioni. Chiaramente stiamo parlando di un piccolo paese di provincia, sì. 3.000 anime, i miei cittadini sapevano e per filo e per segno ho raccontato loro che cosa si trattava, ovviamente hanno valutato il tutto. D'altra parte il giudizio era solo, perché poi il processo si è concluso positivamente con la soluzione perché il fatto non sussiste. Sì. Per cui, lei rivendica, nel senso, avessi seguito la linea intransigente non mi sarei candidato, e poi sono stato è finito bene il processo e chi mi poteva rigarantire di quel posto, insomma, che, al quale avrei rinunciato in quanto indagato, o meglio rinviato a giudizio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Ci chiediamo se serva una legge per stabilire chi si deve candidare oppure no, se sulla questione e sulla base delle candidature pulite, le liste pulite. Sentiamo Roberto da Treviso, che ne pensa? Roberto. Allora, sì. Niente, volevo semplicemente dire che sono d'accordo sul fatto che ci sia una legge in materia, anche se non così serrata questa legge, ossia secondo me nel caso di un avviso di garanzia non bisogna essere così restrittivi, cioè l'avviso di garanzia vuol dire tutto e nulla, giusto? però nel caso di una condanna oppure insomma di un caso di imputabilità abbastanza grave e con un giudizio in corso, allora ecco, in quel caso penso che sia opportuno. Cioè, se uno ha processo, che ne so, per un qualcosa, faccio un'ipotesi di reato, corruzione? Dovrebbe. No. Sì, beh, vabbè, corruzione nel caso appunto di collaborazione con la mafia, queste cose, sì. È chiaro che secondo me è per un discorso di anche di importanza della carica pubblica, è giusto. Cioè, non può candidarsi, secondo lei. Ecco, su questo Sonia Alfano, perché lei è così intransigente? Nel senso, che gli diciamo a uno al quale l'avviso di garanzia, per esempio all'amministratore adesso di un piccolo comune, che ha detto io mi sono ricandidato, c'era un processo, poi l'ho vinto il processo, sono stato mandato assolto, se avessi seguito la linea anche etica intransigente non mi sarei ricandidato. Candidato, avrei perso il posto a tutto e poi ero innocente. Intanto l'ascoltatore ha fatto un riferimento secondo me su cui dovremmo riflettere. Ha detto: i miei concittadini sapevano della mia innocenza e della mia condotta. Io credo che in quel caso i cittadini possono, come dire, esprimere una propria opinione, poi tutto dovrebbe essere lasciato solo ed esclusivamente all'attività della magistratura, quindi questo dovrebbe essere un punto cardine. Fermo restando che in altri paesi fortunatamente non esiste una legge che impedisca quello che moralmente ed eticamente dovrebbe essere scontato, cioè se tu sei un indagato, comunque sei un condannato, addirittura un pregiudicato, non dovresti neanche lontanamente poter pensare. E quando l'onorevole Lorenzini parla della Costituzione, dice: ma la nostra Costituzione è vero, ma i nostri padri costituenti non credo che, considerato la mole e lo spessore, abbiano mai potuto immaginare di mettere addirittura alcuni vincoli. Detto questo, io credo che proprio per determinati reati, come quello per esempio corruzione o reati contro la pubblica amministrazione, ci dovrebbe essere una veramente una qualcosa di molto più serio su cui basarsi. Non si può lasciare tutta la libera interpretazione, anche perché poi se consideriamo quello che accade soprattutto all'interno del Parlamento italiano, ci rendiamo conto che chi fa le leggi purtroppo sono indagati, pregiudicati e condannati. Quindi con quale credibilità alla fine anche il cittadino che dice: se io avessi dato retta insomma a questa teoria molto più intransigente, avrei perso l'occasione. Ma il mettersi al servizio di questo paese e fare politica in modo serio significa mettersi al servizio del paese, e quindi non può significare perdere un treno, ma deve significare: ok, io ho un problema, visto che l'avviso di garanzia è qualcosa che, come dire, deve andare a garantire più che altro colui il quale è oggetto delle indagini, io lo affronto in maniera serena, me ne tiro fuori. Sì, però me ne tiro fuori, ma se, non so, mi dimetto dal Parlamento, poi non è che uno mi va a rimettere nel Parlamento se... Se tu hai avuto ragione, io credo che i cittadini ti daranno ancora, ti apprezzeranno per due motivi in più. Cinque anni dopo. Ma non è un vincolo, non è che per forza uno deve prendere quel treno perché nella vita non sa fare altro. No, ma chiedo, se uno si dimette, i cittadini apprezzeranno intanto perché si dimette, e poi apprezzeranno se è stato effettivamente assolto. Tra le altre cose, io credo che qui bisognerebbe fare anche una piccola riflessione. Ci sono determinati reati, come per esempio il reato di opinione, che francamente non può essere paragonato alla corruzione, non può essere paragonato al favoreggiamento alla mafia o altro. Però per quello che riguarda la corruzione, la mafia, contatti insomma con... Sì certo, ci sono reati e reati. Onorevole Lorenzin, su questo anche molti ci scrivono: ma come, ci sono, e l'ha detto anche Sonia Alfano, anche in Parlamento siedono persone condannate, non in via definitiva, ma per reati anche molto gravi, sotto processo. Voglio dire, stiamo a parlare di liste pulite? Non sembra un po' una contraddizione? Se noi vivessimo in un sistema perfetto, dove i tre poteri funzionano ad orologeria, dove uno ha un processo nel giro di un anno, dove finisce il proprio iter in tempi certi con una certezza della pena, tutto il ragionamento dell'onorevole Alfano potrebbe anche tenere, ma poiché non viviamo in un sistema perfetto, la nostra Costituzione ci garantisce la possibilità di esercitare i principi democratici in questo sistema purtroppo fortemente imperfetto, come ci ha dimostrato la storia italiana negli ultimi anni. Vorrei soltanto fare due piccole riflessioni. La prima sulla nostra Costituzione. I padri costituenti non erano dei padri pellegrini, erano uomini e donne che uscivano fuori da una guerra e cercavano di evitare una guerra civile. Quindi quando hanno, diciamo, predisposto alcune norme di salvaguardia, che sono quelle che garantiscono tutti gli stati di diritto moderni, lo hanno fatto a ragion veduta, anche immaginando un'invasione della magistratura nella vita politica. Per questo c'era l'immunità parlamentare, che oggi, ricordo, non c'è più. Che andrebbe ripristinata, secondo lei? Ma secondo me con alcune correzioni sì, o quantomeno secondo me andrebbe, e lo dico con onestà profonda, ripristinata una cultura politica diversa nel nostro paese e un atteggiamento, un rapporto tra giustizia e politica diverso, ma non è questo il tema. Il tema oggi della trasmissione è quello delle liste pulite. Sì. Parliamo tanto di Camera e Senato. Io che vengo dagli enti locali dico: facciamo attenzione a quello che accade negli enti locali, dove non c'è la lista bloccata, dove non ci sono l'insindacabilità dei deputati, ma dove ci sono invece le preferenze e tanti tanti nomi sulle liste. Lì bisogna che ci sia una capacità di valutazione nelle scelte dei singoli candidati, ma le norme, le leggi, ce l'abbiamo nel nostro paese. Vanno applicate. Noi, quelle leggi. La legge c'è e sono come sempre leggi molto fatte molto bene, presentate molto bene. Noi abbiamo l'ineggibilità per reati contro la pubblica amministrazione, cioè tutti quei reati gravi di cui si parlava prima già sono previsti dal nostro ordinamento. Allora il punto qual è? Il punto è prettamente culturale, cioè riavvicinare i cittadini alla vita partecipativa attiva nel nostro paese. Sì. Quindi fare un vaglio, che è un vaglio prima di tutto di moral suasion all'interno. E comunque che aspetta ai partiti, lei dice? Che aspetta ai partiti? Ai partiti e ai cittadini. Ai cittadini. Io però mi devo fermare perché sennò sforo. Ringrazio Beatrice Lorenzin del PDL, Sonia Alfano Italia dei Valori e procuratore Alberto Cisterna della Direzione Nazionale Antimafia, Sara Spreafico in redazione con Peter Bescapè in regia. Do la linea a Oscar Giannino, ci troviamo domattina 7:30.